avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà quanto un femme bail. Oro avete addosso? Ci pensavo questa mattina alla metropolitana. Se incappassi una banda di rapinatori, cosa mi porterebbero via? Beh, tolto lo zainetto, c'è l'iPad, due o tre diavolerie elettroniche a cui tengo abbastanza. Addosso non c'ho poi tante cose di valore. Qualche vestituccio, sì, di buona firma. Ma soprattutto c'ho la fede. Ecco, l'unico pezzo d'oro che ho addosso è la fede. Un orologino da 50 euro, molto carino, ma non vale niente. Ho la fede d'oro, non me la sono mai voluta togliere, perché uno passa anche l'età in cui gli uomini gigioni tolgono la fede, se la mettono al collo, fanno il leva e metti, vogliono fare gli scappi. Poloni. No, io la mia fede me la tengo, è la più grande assicurazione alla tranquillità, alla serenità, alla fugace e rapace possibilità di incontri amorosi. Il fatto che abbia la fede vuol dire che sono persona tranquilla, ferma lì. Comunque questo cerchiettino d'oro un suo valore l'avrà, perché magari potrebbero staccarmi il dito, strapparmela, perché penso nemmeno si sfili più. Ricordo che una volta andai in uno slum in Kenya a fare un servizio e vedendo tutte quelle facce attorno che ti guardavano e ti avrebbero mangiato vivo probabilmente, non avevano nulla, vivevano un immondezzaio, la prima cosa che feci mi tolsi la fede e l'attaccai con una gomma da masticare dentro un posto nascosto che non si vedesse, capito? Ecco, mi salvai la fede, mi dispiace, era il nome scritto dentro, via dicendo. Ricordo che invece da bambino vedevo mia nonna che invece avere la fede d'oro come avevamo tutti aveva una fede d'alluminio bruttissima e mi raccontava l'aveva data alla patria. E dico, ma perché non te la sei ricomprata? Dice, ma no, sai, me la sono tenuta questa. C'era sempre questo cerchietto brutto, era una signora molto distinta, molto intelligente. Aveva questo cerchietto di ferro, era senza oro, era totalmente priva di oro. In un momento di contingenza particolare, mi ricordo che a casa un giorno mia madre disse, mi vendo gli ori. Poi erano quattro cosine. Poi questa idea che si vendesse gli ori era un po' l'impressione che si fosse toccato il fondo. Ricordo che io vivevo in campagna fino all'età di 20-25 anni circa. C'era una sorta di cantinetta dove si tenevano, mi sembra, le botti dell'aceto. E mi raccontavano i vecchi contadini che lì c'era seppellito un cavallino d'oro. E da bambini io e i miei fratelli eravamo lì e ogni tanto andavamo a giocare e scavavamo alla ricerca del cavallino d'oro. Ricordo che c'è sempre la voce che gira quando muore un vecchio dalle nostre parti che abbia nascosto da qualche parte i marenghi d'oro. Quello ci ha nascosto i marenghi d'oro. Chissà perché poi marenghi, che è una moneta così desueta, così scomparsa, così antica, quando mai nelle campagne umbre sono circolati i marenghi. Ma ogni volta che muore un vecchio vanno tutti a cercare i marenghi d'oro. Anche Pinocchio sotterra gli zecchini d'oro pensando venga fuori l'albero degli zecchini. Insomma, questa mattina mi piace parlare dell'oro. Quanto oro avete addosso? Siete quelli che vanno a comprare oro? Sono quelli che nascondono l'oro? Tutto l'oro delle famiglie normalmente sta nelle cassette di sicurezza delle banche. I vecchi gioielli delle nonne, le zie dell'eredità, chi si tiene i gioielli in casa? Chi va in giro con i gioielli? Veri, poi, quelli d'oro. Quindi stanno nelle cassette di sicurezza. Pare che oggi molti comprino lingotti per investire, una forma di investimento sicuro. Quando c'è paura tutti vanno a comprare l'oro. Le banche non hanno più lingottini. Sono andato a chiedere alla mia banca, posso comprare un lingottino? No, sono finiti, bisogna ordinarli. Quindi evidentemente c'è una nuova corsa all'oro. Questa mattina vorrei raccontarvi e vorrei che voi mi raccontaste tutto ciò che vi viene in mente pensando all'oro. Perché esiste un grande mercato dell'oro, mercato clandestino, sotterraneo, esistono i cercatori d'oro, esistono ancora le persone che vanno al banco dei pegni e si impegnano l'oro. Esistono le persone che regalano oro, esistono le persone che nascondono oro, esistono le persone che accumulano oro. Oro, oro, solo oro in questa casa, neanche un centesimo per le vacanze. Le vacanze. Soldi per le vacanze? Il problema è risolto, mia padrona. Ma dove siamo? Da Gialloro, dove permutiamo il vostro vecchio oro a 13 euro al grammo e in più regaliamo un prezioso orologio. Ma noi l'oro vogliamo venderlo. E noi lo acquistiamo a prezzi incredibili. Gialloro, sei un genio. 800240024. Raccontatemi la storia dell'oro di famiglia, la storia del vostro oro, l'oro maledetto, l'oro rinnegato, c'è anche l'oro che porta sfortuna. Ci sono dei gioielli ereditati da persone che ci hanno fatto un gran male, che nessuno li vuole, si passano di mano in mano facendo le corna, poi qualcuno li prende, se li mette e gli accade sempre qualcosa. C'è quindi l'oro maledetto, poi c'è l'oro benedetto, poi c'è l'oro dei regali della prima comunione. Io avevo una catenina, me lo ricordo, la catenina del battesimo, chissà che fine ha fatto. forse in qualche cassaforte a casa mia, qualche cassaforte a casa dei miei. Non hanno cassaforti, l'avranno nascosto dentro qualche calzino, nel canterano della biancheria. Non la ricordo la catenina del battesimo, era carina, c'era una medaglietta, l'ho tenuta fino a un certo punto, poi non l'ho più messa, non so perché, che la mettevo a fare la catenina d'oro al collo. Sapeva un po' di antico, a un certo punto si toglie la catenina, le mamme le conservano, tengono tutte le catenine dei figli, sperando sempre che in una sorta di ritorno di senso cristiano se la rimettano, rifacciano le devozioni e via dicendo. Ho regalato le catenine ai miei figli, ma non le portano al collo, chissà dove sono. Dovrei ricercare le catenine d'oro di casa mia. 800240024. Buongiorno, bel signore. Io voglio vendere le mie monete d'oro. Lei l'acquista loro, vero? Certo che lo acquistiamo e lo paghiamo in contanti. In più lo permutiamo a 18 euro il grammo, regaliamo uno splendido orologio. È una collanina in oro con diamante. Ma quante cose mi dai? E tu la mela, me la dai? Gianloro. Questi sono degli spot presi da un sito internet, da YouTube, dove c'è un signore che c'ha un'attività di compra, che compra, dove compra oro. E è bello, è interessante, c'è qualcosa di arcaico, di antico. Si sono andati a vendere gli ori. Di solito le donne andavano a vendere gli ori quando avevano dei mariti dissoluti, che spendevano tutti i denari di casa, il necessario per il pane dei loro bambini, in donde di malaffare o in bische, in case da gioco. E le mogli silenziose, vergognose, o ci mandavano la serva se erano di famiglia piuttosto abbiente, andavano a vendere l'oro. Si andava al Monte dei Pegni, si andava a impegnare, o si vendeva qualche strozzino, o si vendeva a persone che sono disponibili a comprare oro. L'oro si vende nei momenti di bisogno, nei momenti di disgrazia. È un momento maledetto quando una famiglia si vende l'oro. Una famiglia che si tiene gli oro in famiglia è una famiglia che mantiene comunque il segno tangibile dell'agiatezza. Toccare l'oro è bello. È zio Paperone che si tuffa nel suo deposito in mezzo alle monete d'oro, si fa la doccia con le monete d'oro. È Remida che tutto quello che tocca diventa oro. Anche nei videogame dei miei figli c'è una avventura di Lara Croft, Tomb Raider, in cui lei diventa oro. È bellissimo. I miei figli la facevano e la rifacevano perché impressionava molto loro vedere Lara Croft che diventa tutto d'oro. 800240024, Maurizio. Sì, io chiamavo perché volevo dare la mia interpretazione sul senso di quello che sta succedendo. Negozi che acquistano oro in ogni frazione, in ogni paese. Sì, ne vedo tantissimi, compro oro. Tanta gente ha oro da vendere. Ma dove sta la fregatura? La fregatura sta nel fatto che siccome la zecca americana ha mandato in giro per il mondo tonnellate e tonnellate di banconote, abbasserà il valore del denaro e del dollaro, di conseguenza anche dell'euro e di conseguenza anche dello yen, che sono legati. E lei mi fa un discorso da mia economia che io non riesco a afferrare nella sua interezza. Ma quello che sarà la doppia fregatura per noi è che noi diamo a loro i nostri ori, che sono quello che... Quindi la vecchia che si va a vendere l'anello da fidanzamento per comprare il cibo per i gatti è istigata dalla zecca americana? Esatto, perché loro prenderanno i nostri ori e guadagneranno, perché il valore aumenterà, e noi prenderemo in cambio della carta, che diventerà sempre più carta straccia perché il valore dell'euro è destinato inesorabilmente. Io pensavo che fosse un segno di micragna nascosta, piccole vergogne di famiglia. Lei mi dà un'interpretazione macroeconomica, fa molto onore anche alla radio che indegnamente io occupo, perché in fondo la vocazione di questa emittente è tipicamente economica, quindi lei mi ha dato subito una contestualizzazione corretta, ma a me mi interessa qualcosa più legato comunque al senso interiore, alla necessità. Quando uno vende oro, vende qualcosa di valore, qualcosa che non tornerà più mai alla stessa maniera. Ma c'è anche l'oro venduto a pezzi, c'è anche le minuzie, i vecchi anellini, i denti del nonno. Quanta gente stacca i denti quando muoiono i nonni a casa e prende le capsule d'oro? Non so se esistono più le capsule d'oro, quei bei denti d'oro oggi li mettono soltanto gli zingari. Io ho rimesso 2 o 3 denti ultimamente, ho fatto dei lavori terrificanti. Beh, costano tantissimo, ma sembrano denti veri, inconfondibili con i denti che ti dà madre natura. Quindi non c'è più nemmeno quel segno di opulenza del dente d'oro in bocca, che dava tanto di ricco, dava tanto di pappone, dava tanto di persona al limite fra il mondo delle persone giuste e di quelle su cui bisogna un attimo fare un occhio di attenzione. Orlando. Buongiorno. Cioè, no, vorrei raccontare queste storie di quando ero un po' ragazzotto, così ti giocavo. Cioè, sono andato al funerale di mia zia assieme a un amico, mentre giocavamo, cioè, vicino alle tombe, così abbiamo trovato una dentiera piena di denti d'oro. No, ma che adesso, guardi, praticamente il Tecchino mi ha preso da parte, mi ha dato un po' di soldi e ha messo in tasca quella roba lì. No, ma il cranio dove l'avete trovato? Perché sembra una bugia adesso, me la circostanzi. No, no, no. Mentre giocavamo, era vicino all'ossario, cioè sai che dopo giù un po' tolgono tutte. Sì, le buttano dentro l'ossario comune, ma non è che è proprio aperto ai bambini per andarci a giocare, un posto. No, no, no, era sotto. Ah. Era sotto. Cioè, praticamente abbiamo trovato, tieni presente che non sono mica in Italia, io sono brasiliano. Ah, in Brasile, beh, è tutto più facile allora. E quindi, praticamente, cioè, mentre giocavamo lì vicino, c'era questa cosa un po' relusente, io ho detto, ma cos'è quella roba lì? Era una dentiera, non credo che fosse un pezzo di ossa, ma dentiera. Ha tutta la dentiera completa, tutta d'oro. Mi ha preso da parte, mi ha dato un sacco di soldi, ero piccolo così, e dopo, niente, sono rimasto con questi soldi qua, dopo ho raccontato a mia madre, mi ha sgridato... Non ci va a togliere i denti ai morti, giusto? Però il Becchino, sì, quindi evidentemente era una delle sue attività collaterali per arrotondare. Sì, sì, secondo me prendeva un sacco di soldi con quella roba lì, sai, perché non c'erano tanto controllo ancora. Ma perché usava a fare tutti i denti d'oro quel tempo in Brasile? Sì. E dopo, cioè, dopodiché c'era anche questa cosa qua che i denti d'oro dei morti da noi non si poteva toccare, quindi andavano sottoterra seppellite con i denti, capito? Il Becchino che lo sapeva, poi andava lì con le tenaglie e se li prendeva. Infatti faceva la cosa era un po' faraonica, no? Di portare via tutto l'oro che aveva. Ma si mettevano anche gioielli, perché molti seppelliscono i morti con i gioielli addosso. Io questa cosa non lo so, lo so che almeno i denti d'oro dovevano lasciare, non si poteva toccare. Io so una cosa tristissima, quando muore qualcuno all'ospedale, che non ci sono le famiglie, bisogna stare attenti che subito gli fregano l'oro addosso. È successo in più occasioni a più persone che io conosco, una cosa tristissima, lo sciacallaggio sul cadavere, io tanto ho la fede soltanto addosso, ci fanno poco, poi è difficile toglierla, mi devono tagliare il dito. Forza, ultimo imbarco per il paradiso, lasciate qui i vostri averi, forza che il tempo è oro. Gialloro? Sì? Ecco. Eh no, Pietro, anche tu. Eh sì, invece, perché anche da noi sanno che da Gialloro permutano il vostro oro usato a 13 euro il grammo. E che sia piena di bei ragionamenti. Mi fa pensare che un'attività così antica, così lontana dal mondo moderno, così lontana dalla nostra contemporaneità, così nascosta, così clandestina, così legata a piccole miserie familiari, che oggi si risolvono con le finanziarie, con gli splendidi crediti agevolati, con le occasioni favolose che si vedono reclamizzare in televisione e sui giornali, signorine scosciatissime, bellissime, sorridenti, signori con il colletto alto, la cravatta, ben vestiti, con i pantaloni stretti in fondo, che ti propongono fantastici occasioni di prendere crediti, lasciando anche la pensione, lasciando anche il minimo del tuo stipendio. Insomma, ci sono tante possibilità per uscire dai momenti di difficoltà, che ancora la gente si vada a vendere oro. Mi intristisce, ma mi appassiona, anzi in un certo senso mi dà un senso di tenerezza, di nostalgia per il tempo perduto che ancora si presenta attraverso alcune forme di arrangiamento al quotidiano che sanno tanto di antico e di lontano. 800 24 00 24, vendete oro, comprate oro, che ne fate dell'oro di famiglia? Stavano preparando un colpo milionario, sono stati fermati in tempo dagli agenti delle squadre mobili di Roma e Caserta, che hanno così sventato l'assalto al cavo di una banca nel cuore della città campana. Un colpo milionario in una banca metalli di Valenza, nell'Alessandrino, scusate, quattro uomini, di cui uno armato di pistola, volto coperto da un passamontagna, hanno sorpreso l'amministratore della ditta e, dopo averlo legato ed imbavagliato, hanno svuotato il cavò. Il bottino, secondo i primi accertamenti, si aggira sui 500 kg d'oro per un valore di 10 milioni. Diciamo che di oro ne fregano tanto e via in giro, quindi i lingotti nascosti, i cavallini d'oro, i dobloni, da qualche parte saranno. Dove saranno finiti? Chi se li comprerà? Chi se li venderà? Enrico De Giovanni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Enrico De Giovanni è un professionista della compravendita dell'oro, è della Endi Preziosi di Roma, settore acquisto oro. Lei compra oro rottamato, cioè non l'oro già fatto sotto forma di gioielli, ma pezzetti d'oro, denti. Allora, noi compriamo tutto ciò che sono leghe in oro e in argento. Naturalmente c'è un settore più prestabilito che è il rottame, cioè tutto l'oro usato che viene dato poi alla fusione, che ritorna rigenerato e diventano lingotti nuovi per essere rifatti in un lavoro. Ma cosa vi portano a voi da acquistare, diciamo, come oro rottamato? Noi acquistiamo tutto, catenine, bracciali, tutto l'oro di famiglia comunemente usato. Ma anche i denti? I denti capitano, certo c'è una minore frequenza in confronto al resto dell'oro, però possono capitare, ma non sono un gran numero di denti che vengono venduti. Quanto ci si fa con un dente staccato a un nonno, per capire più o meno? Guardi, all'incirca un dente pesa 1,5 grammi ogni dente, quindi consideri che l'oro viene circa 20 euro al grammo. Al netto del tartaro oppure proprio così com'è? No, solitamente i denti vengono pagati da quasi tutti con oro in Italia, non come 18 carati ma 14 carati, perché all'interno ci sono delle leghe dentali che sono ad esempio il nickel e altre materie che io non... Quindi no, per dare una valutazione a un dente, quanto potrebbe valere un dente? Il dente potrebbe costare 20 euro, ecco. Quindi non so se vale la pena di mettere le tenaglie in bocca al nonno per pigliarsi 20 euro. Diciamo che chi porta i denti o è perché proprio hanno fatto un cambio, cioè hanno preso un dente adesso in ceramica e poi... e si sono staccati quello d'oro, ad esempio. Il fatto del nonno è un po' più difficile, solitamente sono anche i dentisti che vendono i denti. Ah, è vero, il mio dentista mica me l'ha detto che fine hanno fatto le capsule che mi ha tolto. Se le tengono, se le vendono. Certo. Ah, vedi. Infatti me l'ha tolta, me l'ha messa nuove, bellissime, quelle vecchie che fine hanno fatto. Ma quelle vanno rotte, se le vendute, vedi. Cosa? I dentisti sono i primi che vendono i denti. Poi naturalmente se ci sono persone che staccano i denti ai morti, quello è un discorso... che andiamo troppo nel... Poi che altri... Che gente tipicamente viene? Mi dia una tipologia media del venditore di oro rottamato. La nostra tipologia di gente sono persone dai 40 ai 65 anni, 70 anni. Persone che comunque soprattutto non vogliono tenere più l'oro perché hanno paura sia che glielo rubano in casa, sia che non ci fanno nulla, che non viene diviso. Quindi parecchie persone, padri di famiglia, cercano di venderlo per fare un bottino, per poi regalarlo e donarlo magari agli eredi. Eh sì, perché quando c'è l'anello della mamma, chi se lo piglia? Quale nuora avrà l'anello della suocera? È molto difficile, sono più figli sposati, è un disastro. Quindi tanto vale venderselo e berselo all'osteria. Diciamo che il 70% sono questa tipologia di persone qua. Più o meno diciamo che è valutabile un giro mensile di quanto oro in peso la gente si vende, quanto oro esce dalla casa e quanto oro poi rientra nel circolo dell'oro vero, di quello dei gioiellieri, quello dei lingotti, quello che poi ha un valore netto e pulito. Guardi, consideri che un buon negozio di compro-oro deve avere come minimo un acquisto di 2 kg al mese e quelli che vanno stra benissimo hanno circa 10 kg al mese di oro acquistato. Che sono tanti, penso, 10 kg d'oro è un bel po'. Però diciamo che va dai 2 ai 10 kg, 10 kg è proprio avere molta fortuna. Senta, ma lei come si spiega ce ne sono tanti di negozi? Lo diceva un ascoltatore, ma in tutta Italia, tantissimi. Prima cosa, questo lavoro è diventato legale dal 95. Prima non era legale in Italia, quindi questo è uno dei motivi. Il secondo motivo è comunque che ad esempio quest'anno l'oro si è alzato in una maniera molto forte il prezzo, quindi la gente è più incentivata. Se prima 2 anni fa l'oro veniva pagato 10 euro al grammo e oggi viene pagato 20 euro al grammo, una persona che magari ha un etto di oro nel cassetto buttato da una parte che non utilizza mai è molto incentivata a venderlo. Chi ce l'ha e non ha bisogno di venderlo conviene tenerselo, perché è un bel investimento. Oggi conviene tenerselo, però parecchie persone hanno proprio paura di tenerlo a casa, perché oggigiorno si sentono tanti furti in casa, tutte queste cose qua, e quindi le persone o perché se lo vogliono vendere, o comunque una persona magari invece di intaccare il proprio stipendio preferisce vendersi l'oro e farsi una vacanza da qualche parte, o comunque comprarsi la cameretta del figlio. Certo, una botta di vita, mi sembra giusto. Sentiamo Luca. Luca, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare la mia esperienza, che è un po' triste con l'oro comunque. Vabbè, io fino a 2 anni fa ho avuto grossi problemi di tossicodipendenza, insomma, e il motivo per cui chiamavo per l'oro è il fatto che ogni giorno... aveva bisogno di soldi per farci. Avevo bisogno di soldi per farmi, quindi mi stavo venduto tutto l'oro di casa, tutto l'oro dei nonni, tutto l'oro che trovavamo a casa di qualche amico. Quindi lei fregava i gioiellini e la nonna pure? Sì, di tutto, a mia madre, mio padre, un dente d'oro l'ho preso pure anch'io una volta. Dalla bocca del nonno? No, dalla bocca no, però mia nonna legava sempre la lentiera e c'era sto dente d'oro dentro al bicchiere, insomma io gliel'ho staccato con le pinze. Ah. E mi ricordo che fino a 3 anni fa il prezzo dell'oro era bassissimo e a volte anche quando tipo lo prendevamo di nascosto toccava venderlo non legalmente ma 2-3 euro al grammo. Cioè il pusher pigliava il dente in cambio della dose subito? Esatto, sì. E glielo valutava nulla? Me lo dava nulla, quindi per dire con un dente non ci prendevo nulla, per dire, capito? Quindi povera no. Nonna, deve mangiare il semolino e manco valeva la pena. Esatto, sì. Lo so, è una storia triste, penso che ormai sia finito questo periodo, visto che lo racconta con distacco, e ritornerà a sorridere sua nonna e se lei può magari gli ricompri il dente d'oro così starà un po' più tranquillo e dormirà con meno affanno. 800 24 0024, il tema mi sembra chiaro, le testimonianze mi sembrano dar ragione a questo senso sottile di bisogno e necessità di definire il valore dell'oro che si ha in casa, che sentivo questa mattina in questa piovosa giornata, e quindi oggi abbiamo deciso di parlare d'oro. A tra un instante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Nastro, dai, dai! Forza, forza! Azione! Dai! Ehi, non guardi che c'è dentro? Assolutamente sì! Napster. Sì. File di 13 4x4. Fanno 208 pezzi. Che ammontano? No, 208 per 22 moltiplicato 16. 2.7. 2.7 milioni. Cosa? No, è 27. Fa 27 milioni. Abbiamo 27 milioni lingotti d'oro. Avete sentito il rumore del lingotto d'oro? Quanto abbiamo sognato i lingotti d'oro da piccoli? C'erano le rapine a Fort Knox, che è tutto questo grande fortino pieno di lingottoni d'oro. E quanto abbiamo visto trasportare lingotti d'oro, sono pesantissimi. E poi la truffa del contropaccotto, uno dei rapinatori cambia i lingotti d'oro con lingotti di piombo ricoperti da una sottile patina d'oro. Si apre il lingotto e si vede che è di piombo, perché l'oro pesa quanto il piombo. Queste sono baggianate, dicevamo da piccoli, anche noi giocavamo con i finti lingotti d'oro. Pensate, la televisione italiana ancora dai gettoni d'oro, qualcosa di così arcaico, desueto, dai tempi di Mike Buongiorno, il gettone d'oro. Ho avuto amici che al tempo dei telequiz degli anni 60 in casa vinsero gettoni d'oro, li tenevano come reliquie, che poi il gettone d'oro mi sembra che valga molto meno di quanto si immagini, perché è un oro di bassa lega. Da piccolo diciamo l'oro di Bologna diventa rosso dalla vergogna, è l'oro con una lega con una percentuale di rame più alta, è l'oro dei poveretti, l'oro rosso, l'oro di Bologna. 800 24 0024, questa mattina parliamo dell'oro. Beh, valutiamo attentamente il valore dell'oro che abbiamo in casa. Molti si liberano dell'oro, abbiamo sentito, pure di essere rapinati, se lo vendono per una bella vacanza in crociera, quelle vacanze che si rimpiangono guardando sgocciolare il rubinetto della vasca, altri se lo vendono per necessità, e pare ancora molto in uso la pratica dello sdentamento del nonno, del furto della dentiera, perché il dente d'oro, che abbiamo capito che fa parte del tesoretto di tanti dentisti, ha ancora un suo valore di mercato. 20 euro un dente d'oro, beh, moltiplicate per quanti denti può avere in bocca un nonno, forse non so quanto possa valere la pena di sdentarlo. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io ho fatto l'orafo per anni, no? Quindi ne ha maneggiato di oro? Sì, sì, certo, sì, è una cosa molto bella. Lei lo fonde, ci faceva tutte queste cose qua? Sì, io fondevo, certo, secondo le richieste che avevo dei miei clienti, ma la cosa più bella che mi è capitato all'inizio degli anni 90, a proposito degli ori di famiglia, mi chiama un amico, un bancario, dove abitavo prima, mi dice: guarda Enrico, devono aprire una cassetta di sicurezza e probabilmente dentro ci sono un sacco di cose, se tu potessi fare un'expertise, che ci saranno anche gli eredi diretti di questo signore vecchio che era morto. Che vieni, mi convocò un giorno di una settimana, andai la mattina in questa banca con la bilancina, cosa c'è, cosa si porta dietro per fare, sì, c'era, sì, anche, ecco, sì, all'epoca sì, c'era una, e bilancina. Per vedere se l'oro è buono come si fa così a occhio? Ma è l'occhio, sì, l'oro di solito si struscia su una pietra, poi si mette sopra un acido e secondo la reazione, se scompare su questa pietra il segno fatto prima, appunto quell'oggetto strusciato, se questo scompare non è oro, se invece rimane con sopra questo reagente e oro. Poi ci sono gli ori a 18, a 16, a 9 carati con i vari reagenti per vedere appunto il tipo. Ma perché nei film si vede sempre che mordono il doblone d'oro per vedere se è buono, gli danno un morso? Probabilmente perché l'oro è morbido come metallo, è molto morbido, e quindi forse all'epoca, quando non c'erano questi reagenti, con una leggera pressione dei denti, se rimaneva inciso, se rimaneva sopra una tacca, allora probabilmente era oro. Era oro buono. Era oro buono. Ma la cosa bellissima è che andammo su in questo cavò, con tutti i congiunti del defunto, che si strusciavano le mani, avevano quasi la schiuma. Si leccavano i baffi, certo. Questo signore, un signore appunto di una novantina d'anni. I marenghi d'oro speravano. I marenghi o le sterline o quello, che insomma questi erano tutti ansiosi di vedere cosa c'era in questa cassetta, dato che ogni giorno questo signore, perlomeno tre volte per settimana, si faceva accompagnare dalla moglie in banca, andava giù in cassetta, come per la privacy, in cassetta si va da soli, non si può andare con nessuno. Ci teneva i giornali zozzi, cosa ci teneva dentro? E praticamente Nicoletti dentro c'aveva due barattoli di Nutella, c'aveva, mi ricordo ancora, un sacchettino di marron glacé. E poi aveva caramelle, tutto. Poverino, quanto. I suoi vizi proibiti, ma c'aveva il diabete, non poteva, evidentemente. Bravo, non poteva mangiare, era controllato sempre dalla moglie, dalla badante. E questo signore, per fare tutto quel che, per mangiare, tutte le cosine, era costretto ad andare in cassetta. Loro erano i suoi tesori. Era tutto. Loro se l'era venduto, probabilmente. E i suoi tesori, ecco. L'aveva dilapidato in marron glacé e Nutella. Quello che si può dire è che ai congiunti non gli rimase la bocca amara. Due marron glacé ammuffiti e la Nutella con la muffettina sopra, perché dopo tanto tempo. Ecco, questo qui ha dato più valore alla Nutella. Grande, un grande signore, devo dire, questo qua. Veramente, eccezionale. È stato, ricordo. Pensa come avrà soppesato il piacere dell'apertura della sua cassetta di sicurezza. Oh, veramente, veramente. Beh, un grande, grazie. Ci ha veramente raccontato una bella storia. Mario. Buongiorno. Senta, io volevo raccontare questo fatto particolare, insomma, che durante una transazione per la vendita di un terreno agricolo, il proprietario, che era una persona ultra ottantenne, ha preteso ed ottenuto il pagamento in sterline d'oro. Praticamente dal notaio il compratore è stato obbligato a portare le sterline, che erano direi anche abbastanza pesanti, perché l'appezzamento era quasi 20.000 metri. Quindi voleva il forziere con i dobloni, non c'erano storie. Non c'era, e in più io mi ricordo un particolare. Ma è legale questo, si può fare, sì. Io non lo so, questo non glielo so dire, perché comunque eravamo davanti a un notaio e... Se c'era il notaio, certo che è legale. Se ha battezzato questa cosa, vuol dire che era possibile farlo. E le dirò anche un piccolo particolare, che quest'uomo ha preteso, io non so per quale motivo, perché non me ne intendo, ha preteso che le sterline fossero, sterline inglesi, naturalmente fossero coniate dopo il 1976, probabilmente perché c'era un tasso... Una lega migliore. Una lega migliore. No, l'unico problema che viene in mente, ma io sono digiuno di queste cose e non ci capisco nulla, che potrebbe... paventarsi una sorta di tentativo di frodare il fisco, perché uno va via con il forziere, come fa? Però evidentemente se la transazione è indicato il controvalore, lui pagherà le tasse per i dobloni che si è portato a casa, evidentemente. Io ho proprio assistito alla firma e comunque in atto Merogito era specificato il valore. Ah, il controvalore. Allora, un forziere di dobloni per il controvalore di tot euro. Avrà fatto così e lui pagava le tasse. Credo che non ci fossero ancora. Vabbè, l'IRE è la stessa cosa. Ne dico una cosa, è stato un esempio, che lui le ha controllate una per una, difatti si è tratti di un mucchio di tempo, in genere in un atto. Ah, le addentava una per una? No, le ha controllate per vedere che l'anno, che tutti gli anni di emissione fossero oltre il 1976. Le cose sono due, o era un maniaco dell'oro o era una persona talmente oculata. A me dicevano che anche c'è, cioè, qui nella zona, anche per quello. Qual che è la zona? La zona è tra Biella e Vercelli. Ah, tra Biella e Vercelli. Cioè, anche quando si trattava di vendita di capi di bestiame, o come, ma anche in tempi relativamente recenti, qui gli agricoltori hanno un po' la mania dell'oro, fare. Tant'è vero che qui, come credo in altre zone d'Italia, ad ogni compleanno, ad ogni battesimo si, regala l'oro. Si regalano le ancora oggi le sterline d'oro, c'è proprio un classico. C'è sempre quello che poi compra l'asino che caca oro, che è una vecchia leggenda. Va bene, la ringrazio, perché adesso devo introdurre un attimo un esperto, poi ci seguirà per l'ultima parte della trasmissione. Giuseppe Pipino, buongiorno. Buongiorno. Geologo, fondatore del Museo Storico dell'Oro Italiano. Lei ha fatto il Museo dell'Oro, quindi conferma il fatto che esiste una sotterranea e palpabile passione per l'oro nel nostro paese. Ma è esistita, in passato è esistita molto più di oggi, anche perché noi, specialmente in Piemonte, nei vari fiumi del Piemonte, si è sempre cercato e trovato oro. Ah, ci sono cercatori d'oro italiani? Ecco, questo mi interessa. Ma dal punto di vista economico, cioè chi lo faceva per mestiere, ce ne sono stati da sempre, dai tempi dei Romani fino agli anni 50. E dove si cerca esattamente? Si cerca nei fiumi più ricchi, che sono l'Orba, l'Orco, l'Elbo, il Ticino e altri fiumiciattoli, compresi fra questi. Dicevo, si cercava perché finché valeva la pena economicamente. Ultimamente si cerca per passione. È un hobby come un altro. È un hobby, si va sul fiume, si passa una bella giornata, si raccolgono alcune scagliette d'oro, si mettono nel vasetto, si portano a casa e si fanno vedere agli amici. Ecco, non è che si diventa ricchi solo la pepita come zio Paperone per diventare ricchi, però è un divertimento. Senta, nel suo museo, a parte diciamo la storia del cercatore d'oro, cosa si raccoglie? Sì, si raccoglie tutti documenti e attrezzature che riguardano l'oro, sia i giacimenti primari, cioè le miniere d'oro che ne abbiamo avute nelle Alpi, soprattutto sul Monte Rosa e nell'Ovadese, si raccolgono appunto materiali e documenti riguardanti l'oro, sia per quanto riguarda le miniere, sia per quanto riguarda la ricerca nei fiumi. Ci fermiamo un attimo, dottor Pipino, perché diamo la linea alle informazioni del traffico, poi continuiamo questa interessante storia dell'oro nel nostro paese. Non è l'oro del Reno, ma è l'oro dell'orco, come ci racconta appunto il nostro ospite. A tra un istante. Melog 2.0. Molti italiani trascorrono il loro fine settimana lungo i fiumi, non a passeggiare o a vogare, ma a cercare l'oro. Chini sull'acqua con gli stivali, un setaccio in mano e un contenitore per mettervi le pagliuzze rinvenute dell'agognato metallo. Bene, se volete seguire il loro esempio, sappiate che l'oro grezzo non luccica, non brilla e non riflette mai a specchio, a meno che non sia umido o colpito da una sorgente luminosa diretta. È semplicemente di un giallo denso. Può essere talvolta più chiaro o più scuro, a seconda della quantità di argento e rame che contiene. Attrezzatura minima richiesta per cercare l'oro nei fiumi, un paio di stivali alti, una pala, un setaccio, un secchio e una calamita. 800240024, siamo partiti dallo staccaggio clandestino e furtivo dei denti d'oro in bocca al nonno addormentato, arriviamo al lecito ricercare l'oro nei fiumi, ma come hobby, perché ricchi non si diventerà mai cercando l'oro, cercando pagliuzze nei fiumi italiani, come ci dice il dottor Giuseppe Pipino, geologo e fondatore del Museo Storico dell'Oro Italiano. Conferma, non si diventerà mai ricchi come zio Paperone, però è un divertente passatempo. Sì, con l'oro, con le miniere d'oro non si è mai arricchito nessuno. Comunque, come dicevo, è piacevole. Volevo specificare che nelle attrezzature che sono state citate, la calamita non è per l'oro, magari se ne troverebbe molto di più. La calamita serve a eliminare i minerali di ferro che si concentrano assieme all'oro nelle sabbie. Quindi eliminando i minerali di ferro si fa meno fatica. C'è una storia del cercatore d'oro italiano, dei personaggi mitologici nella ricerca dell'oro italiano, perché se ne è sempre sentito parlare poco, di solito si andava sempre nei paesi lontani a fare il cercatore d'oro. Sì, per quanto riguarda la ricerca nei fiumi, no, perché sono tutti gelosi, a parte che erano contadini del posto, quindi isolati. Come per i funghi, nessuno dice mai qual è il posto dei funghi. Mentre invece si racconta per quanto riguarda il Monte Rosa, in Valle Anzasca per intenderci, c'è stato un signore a metà del Settecento che si è arricchito ha fatto una vita di miseria cercando sempre oro, finalmente ha trovato un filone e in solo questo filone ha fatto diverse centinaia di chili di oro da un solo filone. Ah. E si è arricchito improvvisamente. Solo che ci si è zincato la bara, si tutta la vita ha fatto una vitaccia per scappare. No, sì, poi ha comprato tanti terreni, alberghi, cose. Ha assicurato il benessere a tutta la famiglia. Ha assicurato per la famiglia. Però io vedo, è morto poco dopo. Dottor Pipino, che al di là di questo romantico, interessante metodo di ricerca dell'oro, la maggior parte del nostro pubblico è fortemente ancorato al tradizionale staccaggio del dente d'oro. Franco. Sì. Saluti Nicoletti. Che ha fatto lei? Si è staccato un ponte che avevo da 20 anni. Ah, era il suo però? Sì, sì, era il mio. Un ponte di 4 denti che era 20 anni che ce l'avevo. E casualmente così, il primo negozio che ho trovato, sono passato, mi hanno dato 80 euro. Io non pensavo mai di realizzare... Se lo sapeva se li toglieva prima. Esatto. Beh, vedrà adesso che ridere quando va a rifarsi il ponte, che costano minimo 2000 euro l'uno i denti. Bravissimo, esatto, è proprio quella la cifra che dovrò, certo, dovrò sforzare. Beh, altro che 80 euro se dovrà spendere. Claudio. Salve. Lei cosa ha fatto? Niente, il mio nome di fortuna, diciamo così, io frequentavo una chiesa di un ordine francescano. In Campania, questa chiesa praticamente danneggiata dal terremoto è stata riaperta. Non è che andava a staccare l'oro dalle mummie dei santi, porta malissimo. No, non ci mancherebbe altro. No, praticamente a entrare in questa cripta non voleva entrare nessuno, perché dopo il terremoto erano circa 15 anni che non c'entrava nessuno. Ci sono entrato io, sono inciampato, era un posto, me lo sogno ancora di notte, insomma, come si può capire, un criptario, un ossario vecchio, un paio di centinaia di anni, quindi c'erano tanti di quei dischi e ossa conservati. Quindi è entrato nell'ossario. Esatto, sono inciampato in un candelabro che pensavamo fosse in ferro battuto o qualcosa del genere, l'ho tirato fuori. Era in mezzo le ossa, buttato così in mezzo le ossa? Sì. Proprio così, come ha detto lei. Ma c'era una mano scheletrita che lo stringeva, no, che le ha staccato oppure? No. Buttato proprio così? Esatto, ci sono inciampato, abbiamo tirato fuori, il superiore mi ha detto, visto che tu hai a che fare con i metalli... Pigliatelo. Esatto, vedi se sarà ferro ruggine, così. Ne ho staccato una fogliolina perché praticamente era realizzato questo candelabro in spiga di grano e tracci di vite. Questa era praticamente l'ho portato prendendo questa fogliolina. Quando l'ho portata a verificare, ma guarda che questo è oro. Quindi lei è diventato ricco da quel giorno? No, ricco no, ricco no. Beh, un candelabro d'oro massiccio. Però io l'ho riportato in chiesa, attenzione. L'ha ridato al frate? È pazzo? Sì. No. E gli aveva regalato? Il frate che aveva 82 anni, la storia finisce così, il frate che aveva 82 anni ha detto l'hai trovato tu, tieni per me. E allora quindi, certo, come Jean Valjean che rubò i candelabri al vescovo, il vescovo dice no, sono i tuoi, te li avevo regalati, è una cosa bellissima. E lei cosa ne ha fatto? Se l'hai venduto? No. Che cosa ha fatto con questo candelabro? Ce l'ho, ma non l'ho venduto. Lo tiene in casa così? Ma quanto vale? L'ha stimato? Quando era in lire allora valeva circa 240 milioni di euro, 240 milioni di lire. Cioè lei c'ha un pezzo che vale 250 milioni di lire e lo tiene in casa così? No, in casa no. Ma perché non se lo vende, scusi? Vive bene, non lo so. Che ci fa? Non è mio. Ma gli ha regalato il frate, eh? Ma non è mio. No, lei c'è qualcosa che non mi dice. C'è un mistero dietro. Mi racconti? Non è mio, no, non c'è nessun mistero. E, non è mio. E di chi è? Non lo so, ma non è mio. A lei ha paura che torni il frate scheletrito di notte a tirargli i piedi e dire ridammi il mio candelabro, questo tema? No, stamattina ho sentito una trasmissione che è stata bellissima, che ho lasciato la seconda. No, vuoi sapere qual è il freno etico, morale e superstizioso che le impedisce di mettere a frutto questo candelabro d'oro? Pensa che porti sfiga, qual è il motivo? No, superstizioso no, non è mio, adesso che l'oro ha questi valori, penso di poterlo alienare e farci qualche cosa. Ah beh, aspetta che vale di più, giustamente, sì. Ma lo alienerò, ma non fa per farci qualche cosa per me. Ah, lo in beneficenza, ci pensi. Vediamo che cosa possiamo fare. Beh, guarda, quanti anni ha lei? 40 adesso. Ah beh, forse ancora, magari, c'è un po' di speranza. Sono passati 22 anni, Ah, sono 22 anni, ogni tanto lo va a vedere, lo tocca, ci parla. Cioè, è un oggetto che ha un senso nella sua vita, ha un ruolo particolare. Sì. Vabbè, no, non voglio andare oltre, perché ognuno poi esplicita la sua affettività come vuole. Lei ha questa storia con questo candelabro d'oro strappato dalle grinfie di uno scheletro di un frate e pensa che le porterà bene. Cesare. Buongiorno. Compro lingotti d'oro. E sì. Che ci fa? No, le spiego. ho avuto una brutta esperienza con le monete d'oro, perché il nostro padre, siamo tre fratelli, il nostro padre ci comprava a Natale per uno una moneta d'oro, che aspettavamo naturalmente, era un momento importante dell'anno. Un giorno abbiamo deciso, dopo anni, prenderne qualcuna, andiamo in banca, nella banca che frequentava il padre, che quindi ce l'aveva fornita, e hanno cominciato a dire dobbiamo vedere se sono buone. Erano buone? Già mi ha dato fastidio sto fatto, perché ci conoscete, le avete vendute voi, e dicono no, ma sai, bisogna vedere, bisogna analizzarle, e qualcuna non è risultata buona. Allora gli ho detto, è stato un po' di discussione, e allora gli ho detto, allora insegnatemi a vedere perché non sono buone. Mi ho detto no, questo non si può fare. Vabbè, va andato una sola, capita, eh. Il povero papà era molto generoso, ma doveva stare più attento da chi comprava le monete d'oro. Edmondo, in conclusione, ci dia questa notizia che tutti aspettiamo da tempo. Allora, dunque, io sono un odontoiatra, volevo un po' chiarire per quale motivo l'oro per la realizzazione di manufatti protesici, ponti e corone si usa sempre meno. Innanzitutto perché l'oro puro e la è sempre più costoso. Solo gli zingari hanno tutti i denti d'oro, anche da ragazzi. Ancora, sì, sì, che li richiedono, ma quello per ostentare ricchezza. E tanto è vero che il mio dentista mi ha detto, ogni tanto vengono dei clienti rom che vogliono tutti i denti d'oro. Sì, sì, perché per loro è un pezzo. Anche perché quello che si usa, ecco, nei paesi occidentali, l'oro puro comunque poi viene rivestito con la ceramica, perché la tendenza è sempre quella di realizzare. Quindi non si usano più denti d'oro. L'ultima cosa, cosa ne fate voi dei denti d'oro che togliete alle persone che ancora hanno denti? Questo, diciamo, ci sono delle ditte che a noi ci tartassano di telefonate per il recupero metalli preziosi. E voi non dite mai però al cliente questo dente ha un valore, pigliate e buttate nel cassonetto. Ma il problema qual è? Che quando noi, o meglio il tecnico, perché lo punto tecnico realizza il manufatto, acquista queste leghe nobili dove c'è varie percentuali d'oro, poi altri materiali importanti, quale rodio, iridio, palladio, platino, che cosa. Devo chiudere. Dell'oro. Sì, sono più costosi nell'acquisto, ma nella vendita non. Che non li vuol più nessuno, molto chiaro. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Cappini, guardatevi attentamente in bocca, troverete un tesoro. A domani. Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.